solo vomito. Come quando nel simposio me lo provocò per mangiare ancora un po', proprio come un politico. Thank you.